Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. È stata appena presentata al Ministero della Salute la 7ª edizione del volume sui numeri del cancro, frutto della collaborazione tra gli oncologi, gli epidemiologi dell'AIRTUM e la Fondazione AIOM. È un'analisi dettagliata che fotografa come la malattia colpisca nel nostro paese. A Obiettivo Salute leggiamo e commentiamo i dati con il professor Pinto, presidente AIOM. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. E partiamo dal numero dei casi, professor Pinto. Sono 369.000 i nuovi casi di tumori in Italia stimati nel 2017. Sostanzialmente l'incidenza dei tumori è stabile, si riduce negli uomini di circa 2.400 unità, cresce nelle donne di 7.000 unità, questo soprattutto legato al tumore del polmone nella donna, le donne non smettono di fumare. Tumori del pancreas, il melanoma che aumenta e il testicolo che tende ad aumentare nell'uomo, mentre nell'uomo si riduce finalmente il tumore del polmone. Il cancro colpisce di più al nord, ma uccide più al sud. Sì, colpisce più al nord, anche se però questa differenza si sta riducendo perché le abitudini di vita del sud, gli stili di vita rimangono molto simili a quelli del nord. Abbiamo problematiche di tipo organizzativo sanitario che però penso che si potranno risolvere nei prossimi anni, soprattutto per quello che riguarda prevenzione, screening e rete oncologica. Professore, quali sono le neoplasie più frequenti? Ma i tre tumori killer che rappresentano i tre quarti sono polmone, i più frequenti sono polmone, tumore della mammella nella donna, della prostata nell'uomo e tumori del colon retto. Sono queste le quattro neoplasie che incidono in maniera rilevante. È un vero e proprio boom di diagnosi di cancro del polmone fra le donne, come lei ha anticipato, che è aumentato di quasi il 50% in 10 anni. Ma diciamo che questo è il problema che dobbiamo affrontare in termini di prevenzione. Negli ultimi 4 anni abbiamo 2.000 diagnosi in meno negli uomini e 7.000 diagnosi in più nelle donne. Questa è una problematica che sappiamo bene legata all'abitudine del fumo di sigarette. Gli uomini hanno smesso la campagna dal 2004 per la prevenzione funziona, le donne purtroppo questo non lo stanno facendo e soprattutto non lo fanno gli adolescenti. Si può e si deve fare di più per ridurre l'impatto di questa malattia perché oltre il 40% dei casi di cancro è evitabile. Professor Pinto. Il cancro è sicuramente tra tutte le malattie croniche la malattia più prevenibile, più curabile e più guaribile oggi. Pensiamo al fumo di sigaretta, come dicevo prima, pensiamo agli stili di vita, pensiamo all'obesità, pensiamo agli inquinamenti professionali e ambientali. Se noi eliminiamo tutto questo potremo quasi per la metà dei casi non ammalare di cancro. Più pazienti hanno lunghe sopravvivenze, più persone guariscono dal cancro. Chiudiamo con questa notizia, professor Pinto. Ma questa è la grande novità, abbiamo in Italia attualmente circa 3.300 italiani ed italiani che hanno avuto un'esperienza col cancro, sono quasi il 4%, il 4-5% della popolazione e quasi 900.000 o 1 milione di guariti. Questo è un gran risultato di quella che fa il sistema sanitario nazionale, di quella che fa l'oncologia in Italia e posso dire questo con orgoglio del Presidente che in Italia abbiamo le migliori sopravvivenze per tumore o tra le migliori dell'Europa occidentale. Grazie professor Pinto, buona giornata. E per oggi è tutto, io vi saluto. I programmi di Radio 24 continuano con Melog e io vi aspetto come sempre in diretta a Facebook. Oggi parliamo di pelle.